so tutto, non parlare più. Tutti! Addio, c'è fumo e odore caldo qui, di dolci e di caffè, e ognuno pensa a sé. Qual giorno più normale, ma io sto male, ma vero che sta tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Come mai?